sorge il sole sulla via di Betlemme, illumina i campi pieni di grano. La strada è lunga, piena di sassi e viandanti che cercano un po' di pane o denaro. I carri sono carichi di merce da scambiare, carichi di peccati da espiare. C'è un uomo risplendente che ci aspetta alla fine di questa via, e un medico celeste lo chiamano il Messia. Medico celeste è il Messia. Scende la notte sulle case di Betlemme, ma l'uomo non dorme, continua a predicare. La gente va in fila a farsi battezzare, dice: sono venuto per perdonare, sono venuto a compiere, a salvare. Sono come un agnello sacrificale, si dirige verso la via immersa nella valle e dice: seguitemi e lasciate il passato alle spalle. Io sono il futuro, lasciate il passato alle spalle. Sono il futuro, lasciate il passato alle spalle.